Partiamo da, diciamo, il tema dei temi per chi lavora nel settore cultura, quindi biblioteche e musei del Comune di Bologna, le famose 150 assunzioni che poi nel corso del tempo sono diventate 100, poi 80, sempre a calare, chiaramente non più tardi di 3 anni fa era quello che annunciava il sindaco, quindi concorso effettivamente fatto, graduatoria effettivamente fatta, dopo un lunghissimo concorso effettivamente si inizia ad assumere una trentina di assunzioni il primo anno e poi più nulla. Quindi a questo punto ovviamente tutti i sindacati, tutte le sigle iniziano a fare il loro lavoro e iniziano a tampinare l'amministrazione per capire cosa se ne voleva fare. Ci sono state dopo un paio d'anni un'altra decina di assunzioni, soprattutto per le biblioteche, scorrendo ovviamente la graduatoria, ma si è arrivati tipo alla posizione 40, quindi ben lontani dalle assunzioni promesse. E poi ultimi due incontri nell'arco degli ultimi 10 giorni, in realtà è già da un anno che l'amministrazione comunale aveva fatto capire chiaramente che non se ne sarebbe fatto nulla già a giugno dell'anno scorso. In extremis viene convocato un incontro dall'amministrazione comunale, noi diciamo per provare a salvare la faccia, dove ci è stato detto chiaramente che ne assumiamo 4, dai, 5, sembra veramente di andare dal macellaio un metro e mezzo lascio, da questa graduatoria che scade tra 10 giorni, cioè durano 3 anni e tra 10 giorni, il 21 di luglio scade, e sempre per bocca dei dirigenti chi va in pensione non verrà sostituito, ma non solo, queste ulteriori 4-5 assunzioni non coprono nemmeno i posti già vacanti a causa delle dimissioni volontarie di alcuni dei vincitori del concorso. Quindi quando dicono abbiamo assunto 40 persone, no, in realtà bisognerebbe togliere tutti coloro che hanno trovato di meglio e quindi non hanno risposto alla chiamata del comune, o se hanno preso aspettative lunghe o proprio si sono licenziati. Perché tutto questo? Vabbè, le ragioni che ci vengono dette, c'è il rinnovo del contratto, cioè che lo dicono come se fosse una calamità naturale, invece è una cosa che dovrebbe accadere in un paese democratico, dovrebbe accadere a cadenza triennale. È venuto fuori, ci sono i tagli di autunno, però essendo in estate qui siamo già ai tagli preventivi. Insomma, il comune più progressista d'Europa parla come un brunetta qualsiasi e afferma appunto che non procederà più alle sostituzioni del personale in cultura, perché rispondendo proprio a precisa domanda delle nostre delegate al tavolo, questa possibilità assunzionale verrà impiegata per assumere altri profili di lavoratori più urgenti. Poi noi andiamo agli altri tavoli e dicono la stessa cosa agli altri tavoli, cioè queste assunzioni continuano a ruotare ma non vengono mai fatte. Questo certifica quello che noi diciamo da tempo, cioè per la prima volta a fine 2024 le 14 sedi dei musei civici si troveranno in tutto con meno di 100 lavoratori. Questo significa, basta fare una semplice divisione, 7 unità di personale per museo. Stiamo parlando di musei come il museo archeologico, come il Mambo, come il museo medievale, come il museo della musica, le famose eccellenze che il mondo ci invidia. E spesso però questo personale non è specializzato, spesso sono, non so, fuori scuola o persone che vengono riutilizzate nei musei, ma appunto servirebbero. C'è un documento del 2017 dell'ICOM che dice proprio professionalità e funzioni essenziali del museo, fa l'elenco delle figure specialistiche fondamentali per la vita dei musei e ne elenca almeno il minimo sindacale, sono 22, noi ne abbiamo 7, di cui insomma parte non specializzato. A questo si va a sommare nuovi tagli sia per l'attività ordinaria che nella manutenzione ordinaria. Insomma, la verità è che non si vuole tirare fuori più nemmeno un euro, ma nemmeno per sostenere più le esternalizzazioni. Sempre all'incontro sindacale è stato detto il privato deve essere responsabilizzato, quindi appunto tutti noi in comune, noi facciamo questa battuta che si ha l'impressione di danzare il valzer, sempre più lento, però il valzer sul Titanic. In cultura devo dire che con le ultime decisioni dal sindaco in giù a noi sembrano addirittura tifare per l'iceberg. Più in generale quindi sembra che ci sia una sorta di disinvestimento nel settore culturale, o comunque manchi una guida? Manca una guida, assolutamente, non si capisce veramente, cioè, l'impressione è proprio questa, a partire dall'acquisizione di Palazzo Pepoli, che tra l'altro abbiamo delle novità su questo, doveva essere riconsegnato vuoto entro il 15 maggio, in realtà è tuttora completamente allestito, è chiuso temporaneamente per un guasto tecnico, c'è proprio un cartello, un triste cartello davanti alla porta chiusa, ma anche se andate sul sito di Bologna Welcome o sul sito di Genova Bologna è scritto proprio così. In realtà il progetto è megalomane, che prima lo ha voluto voluto, poi dopo anni di gestione a botte di decine di milioni di euro, quando ha voluto disfarsi non ha trovato di meglio che dismetterlo all'amministrazione pubblica, che in questo caso però non ha avuto nessun problema a farsi carico dei costi milionari di gestione proprio ordinaria. Questi sono i costi che erano certificati da Carisbo ed è quello che effettivamente costa tenere in piedi sedi così grosse. Nel frattempo Carisbo ha potuto dirottare i suoi fondi, stiamo parlando di 1,5 milioni il primo anno e 1 milione per gli anni a seguire, per le altre sedi, tutte quelle che non sono Palazzo Tepoli, che dopo una lunga selezione ha affidato a un gestore terzo che si chiama Opera, un gestore nazionale, oltretutto già al centro di numerose polemiche, per esempio a Pompei, era il gestore di Pompei. Ma in realtà la querelle, che tra l'altro è nata proprio da una nostra profezia che si è effettivamente avverata, è il destino del Museo Morandi. Allora al tavolo abbiamo chiesto di nuovo: ma quel famoso acquisto di Palazzina Magnani a cosa è servito? Stiamo parlando di 2 milioni di euro dati al Demanio più altri 4-5 milioni per rimetterla a posto, che adesso è il rudere che continuerà a rimanere. La risposta è: avrà una vocazione culturale, ma non era una sede consona per il Museo Morandi. 3 anni fa il sindaco lo definì, e qui cito tra virgolette, il nostro sogno, un punto di riferimento, un simbolo della città come Van Gogh per Amsterdam, un grande progetto perché la cultura è la speranza di Bologna. Era stato annunciato un concorso di architettura, rendering, 1 milione di euro sul piatto, quando in realtà poi oltretutto, andando a vedere le carte, essendo di proprietà del Demanio, c'è una legge, la 41 del 2023, con cui il comune poteva richiedere di trasferire a sé la proprietà a titolo gratuito, quindi non c'era neanche bisogno di pagarlo. Ci ricordiamo anche della famosa causa che incombe sulle opere di Morandi, quella per cui iniziata dagli eredi e gli esecutori testamentari della donazione, che erano contrari a spostare, come è scritto nell'assito testamentario, il museo dalla sede originaria di Palazzo D'Accursio. La risposta è stata: non tutte le opere sono soggette a questo vincolo, come dire, ma noi ne abbiamo di quelle che possiamo spostare. Il problema è che quelle vincolate sono circa il 90%, quindi stando a quello che viene detto, il Museo Internazionale Morandi dovrebbe aprire con non più di una quindicina di opere. Oltretutto, per chi conosce Morandi, che noi ovviamente lo conosciamo e lo amiamo, avete presente il formato delle opere di Morandi? Ecco, dovrebbe essere spalmate su Palazzo Tepoli, che ha una superficie di più di 6.000 metri quadri. Per capirci, gli Uffizi, il percorso storico degli Uffizi sono 5.400, quindi praticamente verrebbero disposte un quadro di Morandi ogni 2 pareti, una cosa del genere. Ovviamente a fronte di questo l'amministrazione cosa ci dice? No, ma non, il Museo Morandi non lo mettiamo dappertutto, solo una parte. Quale è questa parte? Il ballatoio, che appunto detto così sembra che stiamo parlando del mansardato di casa, in realtà sono 20 spazi per una superficie pari a quella dell'intero primo piano del museo archeologico. Quindi sì, noi li chiamiamo i nostri indecisori politici, perché per loro sono dettagli questi, ma diciamo, noi usiamo un eufemismo, abbiamo grosse perplessità su questo genere di progetti, che poi sempre noi, che vorrebbero estinguerci come i panda, siamo chiamati a cercare di tenere in piedi. Oltretutto, un po' a sorpresa, la settimana scorsa sono state annunciate le dimissioni della delegata alla cultura Elena Di Gioia. Questa cosa, come dire, avrà un impatto anche sul settore? Sono state dimissioni per noi del settore un fulmine a ciel sereno, trovato da parte di una delle persone che aveva ancora un'idea di gestione pubblica della cultura e che tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno imparato a apprezzare nel corso degli ultimi 2 anni, quindi le auguriamo ogni bene per la sua futura carriera. Però sono state veramente delle dimissioni improvvise. Il giorno prima era a Porretta a presentare il Porretta Soul Festival, il giorno dopo, diciamo di comune accordo con il sindaco, dimissioni. Il sindaco a latere poi dice che stiamo dialogando con la Fondazione Carisbo e contiamo di riaprire Palazzo Pepoli in autunno, che ora è chiuso, questo lo sappiamo, ma non certo il Museo Morandi, che invece richiede tempo. Quindi il mistero si infittisce: riapriamo Palazzo Pepoli ma senza Morandi. Con che cosa lo riapriamo? Nel corso degli ultimi tempi il balletto sul destino di Palazzo Pepoli è stato una spirale, cioè siamo passati da sale conferenze, bookshop di lusso, caffetterie, il fantomatico, aspetta, museo dell'illustrazione, quello che metteva in dialogo Andrea Pazienza e Morandi, cioè proprio due mondi che non, cambierebbero marciapiede se si incontrassero probabilmente. E l'ultima cosa proprio lunare veramente è stata che il sindaco prometteva di trovare una nuova sede per il museo della città, che è ancora allestito nella vecchia sede, ma dobbiamo comunque spostarlo. Tenete conto che anche noi, quando dicevamo la barca non ha più una guida, noi siamo ancora in attesa del fantomatico piano strategico dei musei. Io ricordo che Lepore ne parlò per la prima volta quando andò a Parigi, diciamo, in visita ufficiale alla sindaca di Parigi, la Hidalgo, e ne parlò lì, stiamo parlando di settembre 2023. L'uscita di questo fantomatico piano strategico, su cui stanno lavorando agli alti livelli, con dei top advisor, di cui i monumenti ovviamente anche questi non sono un problema, l'uscita è stata rinviata più volte, adesso si parla, ma si parla di settembre, quindi un anno di attesa, e su questo però appunto le voci sono le più varie, ma ancora noi non ne sappiamo nulla. Stessa cosa per la Fondazione Bologna Welcome, che da quello che apprendiamo dai giornali pare già trovarsi in serie difficoltà economiche. Notizia dell'altro giorno che ha chiuso l'infopoint all'aeroporto, ma loro stessi mi pare a novembre hanno parlato appunto delle difficoltà derivanti ad esempio dal fatto che non hanno più gli introiti della Torre degli Asinelli. Ma anche lì il piano industriale, che era stato annunciato in pompa magna a un tavolo tecnico a marzo, è ancora in fase di elaborazione. Qui veramente il nostro problema è che noi abbiamo tutte le domande, abbiamo anche molte delle risposte, non abbiamo un interlocutore dall'altra parte. Qui chiedere poi la domanda che è quella centrale: ma chi lavorerà nei musei civici nei prossimi anni? E attenzione, non sto parlando solo dei musei, delle sedi attualmente esistenti, perché da parte del nostro nuovo, tra mille virgolette, vulcanico assessore alla cultura, perché Lepore ha deciso di mantenere a sé la delega almeno fino a fine anno, poi vediamo, c'è una lista infinita di progetti di apertura di nuove sedi museali. Adesso vado a memoria perché magari me ne dimentico qualcuno, ma c'è il museo dei bambini e delle bambine, il museo delle case popolari, il polo della memoria democratica, il potenziamento con la creazione della fondazione La Memoria di Ustica, il museo Marconi a Villaldini, questo in collaborazione da un'idea e con fondi statali. Ovviamente tutto è ancora fermo a livello di annuncio, cioè non so neanche se ci siano dei progetti. Appunto abbiamo parlato prima dell'acrobatica follia di spostare un museo che è già allestito in una sede in un'altra sede che adesso dobbiamo trovare. Ecco, l'unica cosa dall'intervista che invece che è sempre chiara nel sindaco è che i tagli al personale draconiani, che non solo colpiscono i lavoratori del comune ma anche il personale all'interno di Genova Bologna, il sindaco risponde nell'intervista con un cinismo che oramai non ci sorprende sinceramente nemmeno più: i lavoratori sono un problema dell'azienda che lascia. Ovviamente per noi le lavoratrici e i lavoratori sono tutti da difendere, così come da difendere il sistema culturale e pubblico, che è in totale sofferenza per mancanza di personale, di risorse, di capacità di gestione. Per questo invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori della cultura all'assemblea sindacale indetta, promossa da tutte le sigle sindacali dell'RSU, venerdì 12 luglio alle ore 11 a Mambo.